Capitolo 157. Medea in esilio. Medea fuggì dapprima a Tebe da Eracle, che aveva promesso di proteggerla se Giasone si fosse dimostrato infedele, e lo guarì dalla pazzia che l'aveva indotto a uccidere i suoi figli. Ciononostante i Tebani non le permisero di stabilirsi nella città, poiché Creonte, che Medea aveva ucciso, era il loro re. Così si recò ad Atene e re Egeo fu ben lieto di sposarla. In seguito, bandita da Atene per aver tentato di avvelenare Teseo, si imbarcò per l'Italia e insegnò ai marrubi l'arte di incantare i serpenti. Essi ancora la onorano come dea Angizia. Dopo una breve visita in Tessaglia, dove fu giudicata inferiore a Teti da Idomeneo il Cretese, arbitro di una gara di bellezza fra le due dee, sposò un re asiatico di cui non si ricorda il nome, ma che pare fosse il vero padre di Medeo. Saputo infine che il trono di Eete in Colchide era stato usurpato da suo zio Perse, Medea si recò laggiù con Medeo che uccise Perse, restituì lo scettro a Eete e allargò i confini del regno fino ad includere la Media. Alcuni sostengono che Medea, a quell'epoca, si era riconciliata con Giasone e lo aveva portato con sé nella Colchide. Ma la storia di Medea è stata, come è logico, abbellita e alterata dalla stravagante fantasia di molti tragediografi. La verità è che Giasone, alienatosi il favore degli dei che aveva invocato invano pronunciando il giuramento di fedeltà a Medea, andò ramingo di città in città, odiato da tutti. Ormai vecchissimo, giunse di nuovo a Corinto e sedette all'ombra del largo, riandando con la memoria alle glorie passate e piangendo sulle presenti sciagure. Stava per impiccarsi alla figura oracolare posta sulla prora, quando questa si staccò e lo uccise. Posidone allora pose fra le stelle l'immagine del largo, che non era colpevole di omicidio. Medea non morì mai, ma divenne immortale e regnò nei campi Elisi, dove alcuni sostengono che fu lei e non Elena la sposa di Achille. Atamante, poi, che provocò la spedizione degli Argonauti, non essendo riuscito a sacrificare Frisso, stava per essere giustiziato come offerta espiatoria richiesta dall'oracolo di Zeus l'Afistio. Ma lo salvò suo nipote Citisoro, ritornato da Eea. Zeus allora, irritato, decretò che da quel giorno il figlio maggiore della famiglia degli Atamantidi non avrebbe potuto varcare la soglia dell'aula del consiglio, pena la morte, e il decreto è stato sempre rispettato. Il viaggio di ritorno degli Argonauti fornì materia a molti racconti, ma quello che riguardava il grande Anceo, il pilota, è il più istruttivo. Sopravvissuto a perigliose vicende, egli ritornò al suo palazzo in Tegea, dove un veggente l'aveva un giorno avvertito di non bere mai il vino di un certo vigneto da lui piantato alcuni anni prima. Il dì del suo arrivo Anceo fu informato che i suoi servi avevano pigiato i grappoli maturi e che il vino era pronto. Egli dunque riempì una coppa, se la portò alle labbra e, chiamato il veggente, lo rimproverò per aver profetizzato il falso. Il veggente rispose: «Signore, vi è pur sempre un fuscello tra la coppa e le labbra». In quel momento i servi di Anceo entrarono. «Padrone, un cinghiale selvatico si è scatenato nella vostra vigna!» Anceo depose la coppa senza nemmeno aver assaggiato il vino, afferrò lo spiedo e si precipitò fuori. Ma il cinghiale si era nascosto in un boschetto e, assalendo il re all'improvviso, lo uccise. Un culto attico di Demetra come dea della terra diede origine alla leggenda della visita di Medea ad Atene e culti analoghi giustificano le sue visite a Tebe in Tessaglia e in Asia Minore. Ma può darsi che i marrubi emigrassero in Italia dalla Libia, dove gli psilli erano esperti nell'arte di incantare i serpenti. Il fatto che Medea regnasse nei campi Elisi è comprensibile. Come dea che presiedeva al calderone della rigenerazione, essa poteva dare agli eroi la speranza di un'altra vita sulla terra. Elena, Luna, fu probabilmente un altro dei suoi appellativi. Nei tempi eroici, pare, il re di Orcomeno, giunto al termine del suo regno, veniva condotto al sacrificio sulla vetta del monte Lafistio. Questo re era anche sacerdote di Zeus Lafistio, una carica ereditaria nel clan matrilineare dei Minii. E ai tempi delle guerre persiane, secondo Erodoto, il capo del clan doveva presentarsi nell'aula del consiglio quando era convocato per il sacrificio. Nessuno tuttavia era costretto a obbedire a tale invito e dal racconto di Erodoto pare che il re si facesse sostituire da un'altra vittima, fuorché in caso di calamità nazionali, come pestilenze o siccità. Allora si sentiva obbligato a sacrificarsi personalmente. Le leggende della morte di Giasone e di Anceo hanno un fondo morale e mettono in luce il rischio d'essere troppo famosi, ricchi e orgogliosi. Ma Anceo muore regalmente nella propria città per la ferita infertagli dalle zanne di un cinghiale selvatico, mentre Giasone, come Bellerofonte e come Edipo, vaga di città in città, malvisto da tutti, e muore infine per un incidente. Nell'istmo dove Giasone regnò, per antica usanza, il regale Farmacos era gettato in mare da una rupe, ma veniva poi tratto in salvo da una barca che lo aspettava di sotto, e iniziava così un triste periodo di esilio come un qualsiasi mendicante gravato dalla mala sorte. Sir Isaac Newton fu il primo, per quanto io sappia, a segnalare un rapporto tra lo zodiaco e il viaggio del largo, e può darsi che la leggenda sia stata influenzata ad Alessandria dai segni dello zodiaco. L'ariete di Frisso, i tori di Eete, i dioscuri come gemelli celesti, il leone di Rea, la libra di Alcino, l'acquario di Egina, Eracle come arciere, Medea come vergine e il capricorno simbolo di lascivia che si collega agli amori degli argonauti con le donne di Lemno. Se poi si ricorre ai segni zodiacali egizi, appaiono anche gli elementi mancanti, il serpente in luogo dello scorpione e lo scarabeo, simbolo della rigenerazione, in luogo del cancro.